1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. E allora sono le 7:17 minuti, siamo qui noi e voi debosciati d'Italia, che state facendo nelle vostre lungherrime colazioni interminabili? Dai, che bisogna produrre, e portare i bambini a scuola, fare le vostre commissioni. Forza, forza, lo schema Allegri è quello solito. Dai, dai! Allora, noi parleremo di che cosa? Beh, parleremo sicuramente anche di quello che è successo al Senato. Avremo il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Petrocelli, colui che è stato espulso ieri nella rissa da saloon che si è consumata al Senato. E poi parleremo della vicenda Ebola. Avete sentito, è morto il paziente zero negli Stati Uniti. C'è un caso in Spagna, invece l'infermiera sta meglio, ma ci sono altre persone sotto controllo. E ovviamente, come succede in questi casi, aumenta la paura. Cercheremo di spiegare di cosa si tratta, quali sono i timori e quali sono le precauzioni per arginare, almeno in Europa e nel mondo, Ebola, che invece sta mietendo molte vittime in vari paesi dell'Africa. Ne parleremo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È giovedì 9 ottobre, intanto i titoli sono questi, quasi tutti declinati alla fiducia ottenuta poi in piena notte, all'1:30 circa, sul Jobs Act. Via libera del Senato, i leader europei, sia la riforma, questo è il titolo del Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera titola così: rissa in aula, poi il lavoro passa. Per Repubblica, battaglia in Senato, poi la fiducia, Merkel, bene Renzi sul Jobs Act. La Stampa, Jobs Act, passa la fiducia. Il Fatto Quotidiano, il Senato si incazza e guasta la festa a Renzi. Questo è il titolo di prima pagina. Per Il Messaggero, rissa al Senato, poi la fiducia. Il Giornale, tanto rumore per nulla. Mentre Il Manifesto mette il titolo Lavoro sporco, e ci sono Renzi, Schulz, Hollande, Merkel, Barroso. Mentre Ebola, forse adesso il mondo si sveglia, è il titolo di Avvenire. Libero ha un titolo di prima pagina che francamente anche solo leggere è un'impresa. Non prendetemi per pazzo, e loro stessi scrivono non prendeteci per pazzi, ma il titolo è questo: l'ultima legge di Renzi, due punti, V1 max diviso V1 min per PVD 1 elevato a max. Ecco, non siamo impazziti, ma questa è una piccola parte della complicatissima formula prevista dal governo per accedere ai fondi per lo spettacolo. Insomma, Libero, mettendo questo titolo, dice ecco, eccola qui la lotta alla burocrazia. Ma voglio iniziare a leggere che cosa? Alcuni articoli che mi hanno colpito, come la Cassazione, che diventa troppo trasparente, denuncia il Corriere della Sera con Lorenzo Salvi a pagina 23. Cosa ha fatto la Corte di Cassazione? Ha deciso di pubblicare, in formato PDF, consultabili a tutti, 159.398 documenti. E che sono questi documenti? Sono i documenti delle cause civili degli italiani degli ultimi 5 anni. Con nomi, cognomi, le cause, tutto. E allora scrive il Corriere: la signora Concetta ha litigato con la signora Assunta, che aveva piazzato una veranda sul terrazzo condominiale. In tribunale le è andato torto. La signora Annalisa invece ha denunciato il signor Gianni perché il suo cane l'aveva morsa. E così sono queste le cause. Alcune delle cause di 159.000 documenti con nomi, cognomi, date, luoghi, tutti i dettagli delle storie di varia umanità che si animano dietro ogni carta bollata di una causa civile. Il garante della privacy ha detto: la scelta è apprezzabile in nome della trasparenza, ma togliete i dati personali perché c'è l'effetto buco della serratura di andare a spiare, andare a leggere la causa del vicino, magari troverete i nomi di quella lì che, ah ecco quella lì, cosa ha fatto? Ha fatto causa a quell'altra perché è successo questa roba qui, oh, avete visto la vicina. Insomma, pare che si possa scatenare in questo centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione. C'è anche sul Corriere della Sera l'indirizzo internet, un po' complicato, comunque è www.italgiure.giustizia.it. Ci sono tutte le cause civili degli ultimi 5 anni, con i nomi e cognomi di chi le ha fatte. Forse è un po' troppo, o no? Forse è un po' troppo. In nome della trasparenza, forse si sono spinti un po' al di là, alla Corte di Cassazione. Intanto, a proposito di sentenze di giustizia, avete sentito che Galan, dopo 2 mesi di carcere, è pronto a patteggiare. Tramite i suoi avvocati ha detto: patteggio, voglio patteggiare 2 anni e 10 mesi di reclusione, sono pronto a restituire 2 milioni e 600 mila euro di denaro, ma non ce la faccio più a stare in carcere. Viene definito dimagrito di 20 kg. È diabetico, ha problemi, se la caverà forse ora con un po' di detenzione domiciliare e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Ha anche una bambina, le condizioni di salute non ottimali, cardiopatico, diabetico, dimagrito di 23 kg in questi 3 mesi trascorsi tutti nel centro medico del penitenziario milanese dove si trova. E ora dal carcere di Opera dice: sono pronto a patteggiare. La stampa: Mose, Galan patteggia, offre 2,6 milioni di euro. Per il Fatto Quotidiano: Mose, la super villa per la libertà. Galan patteggia. 2 anni e 10 mesi domiciliare, una mega multa. Secondo il giornale potrebbe uscire dal carcere già oggi stesso. Come detto, invece, noi parleremo di Ebola, questa vicenda che sta veramente colpendo. Lo faremo alle 8:15, dopo leggeremo qualcosa. Prima però voglio leggere ancora che 2 articoli che mi hanno colpito. Il primo è questo, l'ho detto già alle 6:30, non passerà la giornata senza che io mi interroghi decine di volte su questo interrogativo. Perché i cardinali in Vaticano hanno lo sconto sull'acquisto delle sigarette? Ecco, è quello che scrive Repubblica con Marco Ansaldo: sigarette scontate per i cardinali, ecco i benefit del Vaticano. Hanno anche buoni per la benzina, e vabbè, questo si può capire, vanno in macchina. 500 pacchetti al mese di sigarette scontati. Eppure Marco Ansaldo, che è un vaticanista di Repubblica, dice: non si è mai visto un cardinale che almeno pubblicamente si metta a fumare. E allora perché hanno questi sconti? Che ci fanno con le stecche di bionde? Quanto fumano i cardinali, scrive Repubblica. Secondo una lettera inviata dal governatorato della Santa Sede a uno degli eminentissimi porporati, il numero di sigarette in dotazione è altissimo, fino a 500 pacchetti al mese, di cui almeno 200 da poter comprare scontati. Ma qualcuno ha mai visto un cardinale fumare? Nessuno, almeno in pubblico. Cosa se ne faranno dunque i porporati di una tale quantità di stecche di bionde? È un vero mistero. Ma che fate, cardinali? Ve le rimandate al mercato nero? Le date in carità? Non lo so. Comunque, Repubblica lancia questo dibattito. Sigarette scontate per i cardinali, ecco i benefit del Vaticano, anche se la maggior parte dei porporati sostiene di non fumare. E le stecche? Beh, effettivamente è così. Vengono regalate, dicono alcuni dei porporati. Addirittura... forse qualcuno le vende su eBay, scrive Repubblica. Mamma mia, il mistero si infittisce. Mentre, io leggo il titolo, così come lo pone il Fatto Quotidiano a pagina 11. Dire testa di cazzo al sindaco omofobo non è un insulto. Davide Milosa racconta la storia a pagina 11 del sindaco di Sulmona, Fabio Federico, che quando era consigliere comunale si lasciò andare durante una trasmissione a questa dichiarazione: l'omosessualità è una patologia di carattere genetico, come la sindrome di Down, che gli omosessuali sarebbero persone da curare in quanto avrebbero fatto una scelta contraria rispetto alle determinazioni della natura. Poi è diventato sindaco. Nel frattempo un bocconiano, studente della Bocconi, posta questo testo: fai la femminuccia, fai il maschietto, come se fosse una scelta, brutta testa di cazzo. Il sindaco si arrabbia, fa causa, ma il giudice, davanti alla procura di Busto Arsizio, stabilisce: l'archiviazione per lo studente della Bocconi perché nell'immediatezza del fatto, di fronte a dichiarazioni rese in pubblico da un soggetto politico di spicco, quei commenti rappresentano l'immediata reazione, anche sin troppo contenuta rispetto alla gravità delle affermazioni di chiaro stampo omofobo. Insomma, dare testa di cazzo al sindaco, in quel caso era un consigliere comunale, è una reazione anche fin troppo contenuta, secondo il giudice. Vedete un po' voi, se incrociate il sindaco di Sulmona, fate i bravi, fate i bravi. Mentre vince il premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata, e dico anche mani sulle tazzine, che i caffè bollenti vi si rovesciano, non schiacciate le brioche con la crema dappertutto, e se siete in moto, come al solito, mani sul manubrio. Bertinotti perde l'ufficio, ma il suo staff si ribella. Pagina 10 del giornale. Bertinotti da ieri non può più avere diritto ai 200.000 euro l'anno per mantenere personale ufficio come ex presidente della Camera. È una norma che è stata cambiata. Prima era un diritto a vita, ora è stato ridotto. È scaduta ieri la data e ci sono i suoi 6 collaboratori che si ribellano. 6 collaboratori pagati da noi per l'ex presidente della Camera, che dicono: è ingiusto, chiediamo di essere inseriti in un elencone di 300 persone che hanno lavorato a vario titolo a Montecitorio, a cui i gruppi parlamentari sono invitati a pescare quando cercano personale. Bertinotti perde l'ufficio, il suo staff si ribella. Paolo Bracalini lo racconta sul giornale. Avanti, amici miei, ridete dei vostri problemi. Toglietevi tutto, ma non il mio Alessandro Milan. Eccoci qua, evviva! Allora, il Jobs Act è passato, fiducia al Senato che è arrivata attorno all'1:30 di questa notte, dopo una giornata, come dire, leggermente convulsa al Senato. Comunque è arrivato il sì, tra l'altro tutti i dettagli di che cosa prevede questa legge delega, ovviamente poi va riempita con i decreti attuativi, questo è anche uno dei motivi della protesta, li trovate con Giorgio Pogliotti a pagina 2 del Sole 24 Ore. Il titolo è questo: sull'articolo 18, l'impegno del governo. Niente più reintegro per i licenziamenti economici, verrà sostituito con un indennizzo certo e crescente con l'anzianità di servizio. Doppio regime per i licenziamenti disciplinari. Il reintegro scatterà per quei casi ingiustificati, particolarmente gravi, previa qualificazione specifica della fattispecie. Nelle altre situazioni è previsto un indennizzo economico definito e certo. Nessuna modifica invece per la tutela reale in caso di licenziamento discriminatorio. La reintegra nel posto di lavoro resta confermata. Questa è la direzione di marcia per il governo, che intende modificare il regime di reintegro disciplinato dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Tra l'altro, la novità importante è che queste modifiche si applicheranno a tutte le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, a tutte le crescenti, ovviamente quelle stipulate dopo l'entrata in vigore della legge, mentre non verranno toccati i contratti in essere, a meno che una persona non cambi posto di lavoro. Questo è un punto importante, cioè se la persona cambia posto di lavoro, allora il nuovo lavoro sarà soggetto al nuovo regime. Quindi non è che se siete nel mercato del lavoro, avete un contratto a tempo indeterminato, cambiate posto di lavoro, vale tutto come prima. No, vi sottoponete alle nuove regole quando la legge entrerà in vigore. Questi sono alcuni dei dettagli, ma certo passa quasi in secondo piano il contenuto, quando invece al Senato si è consumata che cosa? Una giornata che raccontarla non è facile. Fabrizio Roncone ci prova a pagina 3 del Corriere della Sera. Il lancio di libri, gli insulti, le monetine, uno schiaffo c'entra la parlamentare del PD. L'emiciclo di Palazzo Madama visto dall'alto, scrive Roncone. Volano penne, pennarelli, libri, sputi, bestemmie. Loredana De Petris, capogruppo di SEL, si avventa sul senatore PD Kocancic, che fu capo scout di Renzi. Kocancic schiva il colpo. Un commesso schiva un iPad. Un iPad. lanciano un iPad. E si è detto, tanto poi glielo paghiamo noi se si rompe. Altri commessi si tuffano nella bolgia scatenata dalle opposizioni. Certi senatori s'arrampicano sui banchi, in piedi sui banchi, pugni picchiati furiosamente sui banchi. A questo punto tutti vediamo volare qualcosa verso Pietro Grasso. Il fotografo Claudio Guaitoli ferma l'immagine e controlla i fotogrammi. Ma cos'è? Cos'è? Sembra essere un regolamento del Senato. È un regolamento del Senato. Lo lancia il capogruppo della Lega, Gianmarco Centinaio, che adesso sghignazza soddisfatto. Passa la senatrice Fattorini del PD che dice: sedevo accanto a Cociancic, è arrivata una sberla della De Petris, lui l'ha schivata, ma me la sono beccata io e sto andando in infermeria. Ed ecco pure Vito Petrocelli, capogruppo Movimento 5 Stelle: io sono stato buono stavolta, ma al mattino era stato espulso per aver depositato un'elemosina di 30 centesimi al ministro Poletti. Sono le 19:06 qui, Senato della Repubblica. E vabbè, le scene le avete viste. Gianmarco Centinaio della Lega non arretra di un passo. Intervistato dal Giorno, dice a pagina 2: il presidente va bene che spesso Grasso si comporta come l'arbitro Moreno, ve lo ricordate, quello di Corea del Sud, ma qui stavolta è andato oltre, sembrava l'arbitro Rocchi. Guardi, io non lo volevo colpire, ho un'ottima mira, gli ho voluto far capire che aveva rotto, lo dico e lo sottoscrivo, è inadeguato, ha sbagliato clamorosamente a dar la parola ai grillini, non conosce il regolamento. Insomma, ho detto che si è comportato come Rocchi, facendo segnare al governo un gol in fuorigioco. Questo Gianmarco Centinaio della Lega. Che dice Renzi? Pubblicamente era con la Merkel. Diciamo che l'obiettivo era far saltare l'approvazione del Jobs Act davanti, quando Renzi era davanti alla Merkel. Ed è saltata, nel senso che è arrivata dopo. Renzi era infastidito, si capiva ieri quando ha detto questa sceneggiata che c'è al Senato. Ma lo approveremo qualche ora più tardi, infatti è arrivata l'approvazione nella notte. Racconta Francesco Bei con Goffredo De Marchis a pagina 2 di Repubblica, il classico retroscena su Renzi. Renzi che dice, soprattutto anche di quelli del PD che poi hanno votato ma si sono detti dissidenti, sono fuori dal mondo, sono gli unici che non si rendono conto della situazione, i ribelli del PD. Ma hanno sentito quello che ha detto la Merkel? Ogni volta che parlano guadagno un punto nei sondaggi. Sono come la pubblicità Progresso per il governo. Così Matteo Renzi sul PD e i dissidenti, e conferma in questo retroscena: ora il Jobs Act non cambia di una virgola e va approvato così com'è anche alla Camera. In tutto questo Angela Merkel promuove l'Italia, come scrivono i giornali, proprio nel summit qui sul lavoro a Milano. Passo avanti, così ha definito la riforma del lavoro. Sul fronte dell'occupazione si devono eliminare le barriere presenti nel mercato del lavoro, e l'Italia sta cercando di fare questo col Jobs Act, la riforma del lavoro. Perciò sta compiendo un passo molto importante da questo punto di vista. Renzi incassa il sì della Merkel, incassa il no dei sindacati. Fiom, Landini addirittura dice: occuperemo le fabbriche. Gli risponde in qualche modo Anna Maria Furlan, che da ieri è il segretario generale della CISL, sostituisce Bonanni. In un'intervista a pagina 5 del Secolo XIX, Furlan dice: occupare le fabbriche non è la soluzione. Occuparle oggi con 3 milioni di disoccupati per strada, la produzione industriale in caduta libera, è l'ultima cosa che si deve immaginare di fare. Però certo non risparmia critiche al Jobs Act, dice: mi piace senza dubbio che riprenda il tema delle politiche attive del lavoro, oggi non funzionano, non mi piace che non ci sia scritto che il nuovo contratto a tutele crescenti debba assorbire tutte, dico tutte, le forme di precarietà esistenti, che non sono solo co-co-co e co-co-pro, ma ci sono anche le false partite IVA, gli associati e tante altre forme di sfruttamento. Insomma, il gradimento della Merkel c'è, c'è anche il gradimento, sebbene molto compassato, di Jean-Claude Trichet. Forse vi ricordate chi è il predecessore di Mario Draghi, è colui che quando era capo della BCE nel 2011 scrisse la famosa lettera al governo Berlusconi nell'agosto 2011, poi ci fu l'arrivo di Monti, insomma la storia che sapete, la famosa lettera con i compiti a casa. Dice Jean-Claude Trichet, intervistato da Repubblica, pagina 11, giusta la strada tracciata dal Jobs Act. L'Italia potrà avere più crescita e occupati. E ricorda Trichet quell'agosto 2011, quando dice l'Italia subì un'enorme sfiducia da parte degli investitori ed è un passato recente, non così lontano. I dirigenti italiani devono essere consapevoli e non fare come se si trattasse di una minaccia immaginaria. Mi ricordo bene di quella lettera. Decidemmo di scrivere al primo ministro italiano per chiedere tra l'altro le indispensabili riforme strutturali. Bisogna ricordare la gravità della situazione, l'ipotesi di vedere gli investitori mondiali voltare le spalle all'Italia era un rischio reale in quel momento. Da allora sono stati compiuti sforzi importanti, il bilancio dello Stato è migliorato rispetto ad allora, può vantare un avanzo primario. E il problema dell'Italia oggi però è un altro: da troppo tempo c'è una stagnazione economica, una congiuntura dovuta al debole progresso della produttività del lavoro che frena la crescita. Eppure quando vado in Italia, soprattutto in Lombardia, vedo sotto traccia un formidabile dinamismo dell'economia italiana. È il mistero Trichet, perché non ce la facciamo, che è un po' quello che ha detto qualche giorno fa Barroso, no? Sempre alla stampa, il commissario uscente dell'Unione Europea, e cioè mi chiedo sempre l'Italia, con le potenzialità che ha, come faccia a non essere così in linea con alcuni parametri. Tutti i nodi che Mauro Meazza sa sciogliere in pochi secondi, caro Mauro. Certamente, caro Alessandro, mi viene in mente che anche un po' la mia squadra del cuore, con le potenzialità che ha, non capisco come mai. Non capiamo. Mistero, no, scusami, ero un po' distratto perché stavo guardando che abbiamo messo una tua bella foto con uno sguardo Sarà ispirato, due. Proprio sotto la pagina in cui riportiamo le risposte ai quesiti sulla TASI. Ah, e quindi ho detto, ma guarda, ci sarà un segnale. No, anche perché poi sai che domani invece sul Sole 24 ore daremo una ulteriore guida, un'ultima guida al pagamento che incombe 16 ottobre. Quindi così ero distratto da questa circostanza. Volevo dirti di non mandare i tuoi 2 euro di nascosto in Svizzera, perché guarda che oggi su Sole 24 ore spieghiamo che Berna è pronta alla trasmissione dei dati in automatico, cioè a scambiare i dati con le altre amministrazioni, probabilmente già dal 2017, quindi guarda che poi si viene a sapere, mi raccomando. Ti posso parlare un attimo di IVA, perché oggi si parla molto dell'IVA sugli ebook, parliamo anche noi. Gli ebook, i libri elettronici, pagano un IVA al 22%, come se fossero appunto dei beni voluttuari, e non ridotta come invece i libri tout court. Ecco, però la notizia che ricavo dal Sole è che in realtà abbiamo avuto un calo drastico della lettura, nella lettura, e quindi c'è il 57% di noi italiani non ha letto neanche un libro l'ultimo anno. Pensiamoci un momento. Sono invece cresciuti molto i visitatori all'IKEA, 47 milioni 200 mila, tutti di sabato, mi viene da dire, quando vedo tangenziale, ecco, può accadere che sia quello. Bene, il bonus mobili, vedremo se la legge di stabilità lo conferma, ma naturalmente, come dicevamo già ieri, lo scopriremo solo vivendo. Ricordati della TASI. Ricordati che devi morire, ti ricordi no, nel no, film. Vabbè, per carità, però ricordati della TASI. Mo me lo segno. mo segnato a TASI. Traffico. Siamo qui allora alle 7:46 minuti. Detto che riguarda il Jobs Act, va registrato il non gradimento di Berlusconi, come racconta il giornale. Sono misure bluff, così Berlusconi. Matteo non ha avuto coraggio, ci vorranno almeno 25 anni per implementare il Jobs Act, questa è la posizione di Forza Italia. Ma a proposito di conti, ci siamo dimenticati che entro il 15 ottobre, cioè la prossima settimana, va presentata la legge di stabilità. Certamente non se lo sono dimenticati al governo, e i dettagli sono con Marco Mobile e Marco Rogari. Metà dei tagli i tagli si aggireranno attorno ai 9-10 miliardi, questo è l'obiettivo, avverranno da comuni e regioni. Eccolo qua, il Sole 24 Ore, pagina 8, la metà dei tagli di spesa sarà a carico di regioni e comuni. 9-10 miliardi sono i tagli previsti, di questi 4,5-5 miliardi dovranno arrivare dalle regioni. E per i sindaci invece non meno di 1,5-1,8 miliardi. C'è poi tutta la battaglia sui tagli alla sanità e ovviamente vedremo che succede. Mentre mistero Movimento 5 Stelle, secondo il Corriere della Sera Emanuele Buzzi, Casaleggio usa il pugno duro e licenzia tutto lo staff di Bruxelles. Rimosso anche Claudio Messora, blogger, dopo le elezioni europee è diventato responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Messora, rimosso, dice: ora spieghino a me e a tutte le persone dello staff che hanno lasciato l'Italia, hanno investito, persone che hanno investito speranze, fatiche, risorse economiche per trasferirsi in un altro paese, a Bruxelles. Per il Movimento ora è il momento di concentrarsi sull'evento Circo Massimo, ma poi queste persone meritano di ricevere una spiegazione. Che è successo? Chi lo sa? Vedremo anche questo. Come detto, noi parleremo però di Ebola. Ebola comincia a fare concretamente paura. Addirittura il Messaggero racconta, pagina 10, le ore d'ansia per un ortopedico portato a Roma dalla Sierra Leone, un medico marchigiano che è sotto osservazione da 5 giorni allo Spallanzani ed è entrato in contatto con un collega che aveva contratto il virus. Il 28 settembre un pediatra ugandese di Emergency che lavora in Sierra Leone si era ammalato, è entrato in contatto con questo medico marchigiano che per la verità ora non mostra alcun sintomo, non ha la febbre. Questo fa pensare che si tratti dell'ennesimo falso allarme, ma certo il Messaggero racconta a Roma sono ore d'ansia e anche in Italia ovviamente. Tutto questo quando dagli Stati Uniti rimbalza l'eco della prima vittima, il primo caso, questo signore che si era ammalato in Liberia e poi è andato negli Stati Uniti, è morto. Prima vittima di Ebola negli Stati Uniti. D'altra parte invece in Spagna migliora l'infermiera che è stata infettata e tra l'altro lei spiega forse ho capito come ha toccato una persona che stava curando in ospedale e poi con il guanto si è strofinata vicino all'occhio. Siccome Ebola passa attraverso il contatto di fluidi corporei basta una goccia di sudore, un qualcosa strofinato proprio vicino agli occhi, uno dei punti più sensibili, e da qui forse è nato il contagio. Sta di fatto che il timore c'è, non bisogna fare allarmismi, non bisogna scatenare panico inutile. Noi ne parleremo con il responsabile dell'OMS per l'Europa Bertolini, che è un italiano, ci racconterà come l'Italia si sta attrezzando. Racconteremo questo attraverso anche un epidemiologo di Medici Senza Frontiere appena rientrato dall'Africa. Racconteremo insomma quello che c'è da sapere senza allarmismi ma con giuste preoccupazioni. Secondo Libero addirittura Ebola, che ha causato già 3.500 morti in vari paesi africani, porterà alla fine a un conto di 40 miliardi di dollari di perdite. Questo è il massacro economico di Ebola se l'epidemia supererà i confini di Guinea, Liberia e Sierra Leone, un effetto dirompente ovviamente sulle economie di quei paesi. C'è anche la preoccupazione per il mondo del calcio. La Serie A, racconta il giornale, ma anche la Gazzetta dello Sport mette in prima pagina questa preoccupazione, è in rivolta perché dall'Italia partiranno 24 giocatori che presto faranno la Coppa Continentale, cioè la Coppa d'Africa, e andranno a giocare in Africa nelle loro nazionali. C'è Gervinho della Roma, c'è Belfodil della Roma, c'è Muntari del Milan, Onazzi della Lazio, Babacar della Fiorentina, vero, si giocherà in Marocco, questo è vero, Marocco è un paese assolutamente senza casi di Ebola, mi risulta, ma arriveranno anche nazionali per esempio dalla Nigeria, dove un lavoro si è fatto per contenere l'Ebola, ma l'Ebola c'è. Insomma, il timore ovviamente è che si possa andare in una situazione di promiscuità dove c'è il rischio di contagio di Ebola, e quindi anche le società di Serie A ora si preoccupano per questo, perché poi i giocatori rientreranno in Italia. D'altra parte invece è il mistero Kim Jong-un. A questo punto bisogna dirlo, è un mistero vero e proprio. Dove è finito il dittatore della Nord Corea? Non compare da un mese e mezzo, si è parlato di gotta, si è parlato di frattura delle caviglie per i tacchi alti, mi sembra un po' strano. Manco Alba Parietti dei bei tempi si fratturava una caviglia per un tacco alto, questo se ne sarebbe fratturate due per un tacco alto, immagino 4 centimetri. La verità, racconta Repubblica, è che non si sa e che comincia a insinuarsi il dubbio che Kim Jong-un sia stato deposto. Questo almeno è il titolo di Repubblica: Kim Jong-un è stato deposto. Ovviamente l'allarme arriva da Pechino. Mistero su Pyongyang, si moltiplicano le voci e gli indizi su una resa dei conti ai vertici. E tra l'altro, caro senatore Razzi che spari cavolate alla zanzara sui lager che non esistono, prima volta ammissione dalla Corea del Nord, abbiamo campi di lavoro, campi di rieducazione per il lavoro. Lui che dice che sono tutta un'invenzione. A Razzi. Ma fermiamoci qui. Il Fatto Quotidiano, pagina 13. Il fantasma Kim Jong-un nel grande lager nordcoreano. Forse un golpe. Dopodiché, cari maschietti, care femminucce, cari italiani, forse è stato svelato uno dei misteri più misteriosi del mondo. Libero lo mette in prima pagina con un articolo di Selvaggia Lucarelli. Il punto G non esiste. Sono le 7:54 minuti di giovedì 9 ottobre 2014 e mi preme dare questa comunicazione ufficiale. Lo hanno detto, secondo Selvaggia Lucarelli, due sessuologi, Vincenzo e Giulia Puppo, che con questo cognome farebbero passare ogni fantasia pure a 30 lance, che chi non lo sapesse è un attore porno, hanno chiuso il caso dopo lungo e documentato lavoro di ricerca. In pratica, afferma di due, il punto G non sarebbe che la parte terminale interna del clitoride, è quindi più ampia e più può essere stimolata durante l'atto, ma il punto G in sé non esiste. I rottamatori del punto G. E vabbè, su Libero. Ma vince il premio la carta costa oggi Enrica Roddolo sul Corriere, mezza pagina per il dilemma Monte Carlo. La principessa Charlène aspetta due gemelli. Ma chi se ne frega!